Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Puntata numero 323 del Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi e buona domenica da Gegé Telesforo. E buonasera e buona domenica a un signore che è già stato nostro ospite, una persona che io conosco molto bene, un mio amico, anzi più che un amico, un vero parente. Madame e Messieurs, ladies and gentlemen, bentornato a mio padre, l'architetto Roberto Telesforo, con la passione compulsiva per il jazz. Buonasera e benvenuto, papà. Buonasera a te, Gegé, e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Grazie, papà, sei molto gentile. L'ultima volta che sei stato qui da noi a parlare di musica, mi raccontasti da dove proveniva la tua passione per il jazz, ovvero mi raccontasti degli americani liberatori che portarono latte condensato, la cioccolata fondente, il chewing gum, mi avevi detto, e il jazz. Sì, allora erano cose che potevo apprezzare perché avevo 10 anni queste cose qui. Allora, per quanto riguarda la parte musicale, la musica si suonava dappertutto all'epoca. E si suonava nei bar, si suonava nei vecchi locali che avevano preso, occupato gli americani, e li utilizzavano come circoli per loro, per i loro soldati, per le loro truppe, eccetera. Quindi la musica entrò un po' a far parte della vita nostra, quel genere di musica. Qual era il genere di musica che portarono gli americani? Allora era lo swing, era il Benny Goodman, c'era il Lionel Lampton che faceva. Stiamo parlando però della metà degli anni 40. Sì. Pensa che in quel periodo loro portarono questi dischi, questo materiale, perché era allegro, si poteva ballare, no? Però in quel periodo a New York stava già prolificando il bebop con i grandi protagonisti, una rivoluzione. Quindi chi ascoltava lo swing rimase un po' scioccato quando arrivarono Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk e gli altri. Certo. E a te appassionò il bebop quando arrivò? Moltissimo. Mi piacque molto il fatto del bebop, piaceva anche agli amici che frequentavo, eravamo un gruppetto, non era un'elite, ma 10 persone ascoltavano il jazz a fondo. Uno sparuto gruppo di appassionati, 5 persone. Appassionati ma anche strimpellatori di strumenti. Sì. E quindi tu comprasti il primo sax tenore della tua vita. Sì, comprai un usato, un Desidera. Un tenore italiano. Tenore italiano. E quindi iniziaste a strimpellare. Qual era il tuo modello? Il mio modello, non per una scelta iniziale mia, che non lo conoscevo, fu per quella del mio maestro di sassofono tenore, Alfredo Amatruna, bravissimo, a livello nazionale era forte come sassofonista, e mi fece conoscere Stan Getz. E quindi suonavo dietro ai dischi di Stan Getz, provavo a suonare, a strimpellare. E quindi divenne uno stengheziano. Ah, uno stengheziano, uno stengheziano puro. Sì, puro. Ora, mi raccontasti tempo fa che la prima volta che ascoltasti John Coltrane fu un vero e proprio shock per te. Sì. Non mi entusiasmò perché non riuscivo a capirlo, è chiaro. Certo. Era proprio un fatto di comprendonio di quella cosa, non mi entrava. Sì. Però man mano, riascoltando spesso gli stessi dischi, le stesse cose, eccetera, allora cominciai a iniziato a capire il linguaggio. Ad apprezzarlo moltissimo. Sì, anche perché i musicisti iniziarono a comporre le loro composizioni, i loro brani, e invece per un certo tipo di appassionati il jazz era limitato al songbook americano, quello dei grandi compositori, ma anche questo, no? Allora io direi di ascoltare subito John Coltrane con il suo quartetto da un album del 1964, devo dire un album un po' dark di Coltrane intitolato Crescent, però in questo album c'è un blues intitolato Bessie's Blues che io ti voglio far ascoltare, anzi lo riascoltiamo perché lo conosci benissimo. Con McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso, Elvin Jones alla batteria. Eccolo qui, John Coltrane al soundcheck di Radio 24. Ehi, sì, il mio papà lo ha detto, era stenghezziano quasi come una corrente politica, poi ascoltò John Coltrane, all'inizio uno shock e poi una grande passione per lui. Invece mi sembra che tu non abbia mai avuto una grande passione nei confronti proprio del sax contralto. Per quale motivo? Prima di tutto perché avevo cominciato a suonare un po' il tenore e mi affascinava. Sì, fisicamente eri attratto dal tenore, il contralto un po' piccolo. A parte il fatto di alcuni contraltisti che erano eccezionali, come Julian Canobal Adderley, Charlie Parker, Desmond, ne Paul potrei Desmond nominare un'altra decina. Ma... No, vabbè, ma fermiamoci invece a Julian Canobal Adderley, che voglio farti ascoltare nel periodo devisiano, sempre come corrente politica, perché Miles Davis mise su questa band incredibile. Nel 1958 registrarono questo brano splendido intitolato Friend Dance, una composizione di Miles Davis dedicata alla sua futura moglie, la ballerina Frances Taylor, e con lui ci sono già John Coltrane al tenore, quindi sarai contento, ma il primo assolo è proprio quello di Julian Canobal Adderley. Poi c'è Bill Evans al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria, e nel 59, quindi un anno dopo, questi signori registreranno insieme un capolavoro assoluto come Kind of Blue. Miles Davis, Friend Dance, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Pronti per la seconda parte del soundcheck? Dopo l'informazione, dopo questa splendida versione di All Too Soon, brano scritto da Duke Ellington nel 1940, ma nella interpretazione contemporanea, recente, di un paio di anni fa, di due colossi del jazz italiano, ovvero Dado Moroni al pianoforte e Max Ionata al tenore, che poi tra l'altro, papà, sono anche tuoi amici. Sì, Dado Moroni lo conosco da quando era proprio ragazzetto, 12 anni, 13 anni, che già suonava il pianoforte a pugno chiuso sul Gargano, perché andavano a villeggiare là con la famiglia. E Max Ionata lo conosco in considerazione del fatto che suona con te oramai da tanti anni. Tra l'altro, Max Ionata mi consigliò anche di acquistare un sax tenore nuovo, simile a quello che aveva lui. È vero. Sax tenore che mi è durato sì e no un anno, perché Storia triste questa. Sull'autostrada Roma-Napoli, all'area di servizio San Nicola Ovest, mi è stato rubato. Una vera e propria rapina. Tutto quello che avevo in macchina compreso il sax tenore. Quindi giornate terribili, quelle successive. No, lutto proprio. Sì, è come aver perso un parente. No? Allora, approfitto della tua presenza perché vorrei a questo punto proprio dedicarti un brano che io ho scritto per te alcuni anni fa, intitolato Daddy's Riff, tra l'altro tratto da un album secondo me bellissimo, intitolato So Cool, ma non perché lo abbia fatto io, ma perché ero affiancato da musicisti che io stimo tantissimo, fra questi Max Ionata al tenore, ma anche i due fratelli del jazz italiano Alfonso De Ida e Dario De Ida al contrabbasso, il bravissimo swinger alla batteria Amedeo Ariano. Ed è un brano che io continuo a proporre ogni tanto, facendo anche una gag in testa, perché lo presento raccontando al pubblico: questo è un brano che ho scritto per papà, io e papà ascoltavamo il jazz insieme, papà è un appassionato di West Coast, quindi porto il pubblico a pensare: ecco, un peccato, Gege Telesforo ha perso il papà. Invece scusa Gege, ti interrompo un attimo, no? Approfitto che sto in radio, in video, che non ti vedono. Sì. Vabbè, non dire che vuoi. Hai fatto un gesto scaramantico. Va bene, però io poi lo dico chiaramente. No, guardate, lo so, lo voglio confermare, papà sta bene, il brano l'ho ascoltato, e infatti stai bene, stai qui con me e lo ascoltiamo anche insieme, se ti va. Solo... Sì, ma certamente. Eccolo qua, Daddy Riff da So Cool. Sound check. Yes. Il suono della musica. I said I'm gonna find me somebody. C'era tutto in questa voce, una carica blues eccezionale, lo swing, la potenza vocale e anche una certa sessualità, quella che sprigionava sul palco Dinah Washington in Is You Is or Is You Ain't My Baby, una composizione di Louis Jordan qui da una registrazione del 1959 per Dinah Washington, una delle mie preferite insieme a Ella Fitzgerald. Secondo me Dinah Washington e Ella Fitzgerald insieme rappresentano i numeri pirotecnici che la musica afroamericana da un punto di vista vocale ha dimostrato fino a oggi. Non sei d'accordo, papà? Sono d'accordissimo, faceva parte delle grandi voci, no? Le grandi voci. Le grandi, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen Cray. Io ci potrei aggiungerci una moderna che ci sta adesso, sì. Didi Bridgewater. Didi Bridgewater, è vero. Didi Bridgewater si ispira tantissimo a quei modelli con grande successo e la salutiamo perché è una nostra amica, Didi Bridgewater. Siamo agli sgoccioli, papà, con il soundcheck di questa sera. Ho una domanda per te, perché noto ancora oggi andando in giro per concerti che ci sono molti appassionati della tua generazione, i superstiti del jazz, che seguono i festival, però quando poi si ritrovano a seguire musicisti di jazz contemporanei che propongono il loro repertorio, restano sempre un po' delusi. Per esempio il nostro amico Riccardo De Filippo, l'ultima volta abbiamo, non voglio dire discusso, però mi ha detto ma questo non è jazz, il jazz è quello dei grandi compositori. Ma non è così, c'è sempre un'evoluzione, no? C'è l'evoluzione da un lato, dall'altro c'è il fatto della conoscenza del brano musicale che tu riesci a seguire anche nell'assolo più assolo che fa il musicista, lo riesci a seguire perfettamente, mentre negli altri non ti rimane niente. Perché esci... non conosci la composizione e anche la parte dell'improvvisazione non riesci a seguirla. Tu ma capisco. Ascolti un concerto, vai a un concerto, alla fine ci sta il brano che conosci, che canti e te lo fischietti quando esci. Ora coi brani che fanno adesso non succede niente di questo. Se non li conosci non puoi fischiettarlo. È tutto complicato. Ho capito, però capisci che la musica è sempre in evoluzione, in modo particolare il jazz. Ricordati di John Coltrane, la prima volta che ascoltasti Coltrane, lo shock e poi il grande amore per quel musicista. Questa è la musica, questo è il jazz del soundcheck di Radio 24. Papà, ti lascio però con una grande composizione. Quando Oliver Nelson scrisse Stolen Moments, gli appassionati di jazz di quel periodo dissero: ma che diavolo di brano, un blues minore con una melodia in 16 battute, poi diventa un blues minore. Insomma, è anche l'assolo di Oliver Nelson e ha aperto un percorso. Io direi di suonare questo brano che poi è diventato popolare anche fra gli appassionati di hip hop e R&B, perché sono state fatte delle versioni in chiave R&B, ma questo è l'originale, ovvero 1961, la mia data di nascita. Stolen Moments, Oliver Nelson, da The Blues and the Abstract Truth, album splendido. Roy Haynes alla batteria, Eric Dolphy al flauto e anche al clarinetto basso, Oliver Nelson al contralto, Paul Chambers contrabbasso, Freddie Hubbard alla tromba. A tutti voi buona serata, buona musica, grazie papà, adesso andiamo a cena perché io ti trovo sciupato. Buonasera a tutti. Ciao.